nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Cucuzzolo della montagna con la neve alta così. Allora, mi sembra che le previsioni del tempo indicassero l'arrivo della neve anche a bassa quota, quindi anche a Milano, vedi niente? È così, no, per adesso no, però diciamo che il clima è propizio al tema che affronteremo quest'oggi. Esatto, allora oggi è il 1° dicembre, quest'anno sembra che la stagione sciistica sia pronta a dare qualche soddisfazione agli operatori del settore, che invece negli ultimi anni non è avevano che ne abbiano visto la mancanza di neve, hanno visto tanta, insomma, manco l'ombra di lei. Noi ce le auguriamo soprattutto per le nostre meravigliose località, a partire da quelle che hanno peraltro anche guadagnato i primi posti della classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore. Giustamente, proprio lunedì scorso abbiamo segnalato come l'arco alpino è privilegiato per la qualità della vita. Allora, ma a parte questo, se dopo le vacanze o magari anche prima ci dovesse venire in mente di fare un piccolo grande investimento immobiliare, volessimo comprare una seconda casina sul cucuzzolo della montagna, caro Mauro. No, ma volentieri, però posso dirti una cosa? Dimmela. Allora, da 3 mesi più o meno che conduciamo questa trasmissione abbiamo insieme. Comprato un sacco di case. No, mi hai proposto una puntata sui diamanti, una puntata sugli yacht e le barche, adesso la seconda casa. Non è che stai cercando di dirmi qualcosa, Deborah? Guarda, Natale dietro sono regalini un po' costosucci. Io ho provato a darti suggerimenti in ogni modo, a buon intenditor poche parole. Vabbè, un mazzo di fiori e ce la caviamo così. Proseguiamo. Però, allora, insomma, avrete capito che oggi parliamo della seconda casa in montagna. Chissà che prezzi troviamo in questo momento, qual è il trend di mercato e magari, insomma, la settimana bianca potrà darci qualche indicazione se la località dove siamo andati a sciare potrebbe essere quella buona per fare questo investimento. Che ne dici? Sì, perché noi sappiamo che, insomma, a noi italiani piace investire sul mattone. Il mattone è una cosa piace, che non passa mai di moda, non ci scoraggiano dei rendimenti immobiliari, cali del valore, ma spesso si investe anche con prospettive molto di lungo periodo. E allora abbiamo chiamato un'esperta che è una grande amica, direi. L'esperta con la E maiuscola, ma anche la L maiuscola, Bondiamo, esatto, che è una grande amica di Due di Denari e che i nostri amici che ci seguono sulla pagina Facebook possono già vedere in una splendida, e sottolineo splendida, giacca verde. Adesso faccio un complimento a una signora avendone presente un'altra e quindi commetto con ciò un errore imperdonabile. Vabbè, ti perdono io, dai, su. Allora, Giulia Garbi, buongiorno Giulia. Buongiorno a voi. Eccola qua, guarda, intanto condivido il video su Facebook così almeno i nostri amici potranno vederti in tutta la tua bellezza e simpatia. In tutto il mio verde. In tutto il tuo verde, esatto, verde alpino. Chi invece non può vederci su Facebook o mandarci anche domande per quanto riguarda l'investimento immobiliare su Facebook potrà, come sempre, telefonarci, cara Deborah. Esatto. Allora, 800 24 00 24. Senti, però, per introdurre Giulia Garbi, per chi non la conoscesse o non se la ricordasse, do un piccolo aiutino proprio come nei quiz degli anni 80. Sentite. Sì. Una coppia alla ricerca della seconda casa. A disposizione un unico budget per una scelta condivisa. Io preferisco la montagna e lui invece preferisce il lago. E siamo alla ricerca della nostra seconda casa. Vi prego, aiutateci. Grazie. Tra moglie e marito, chi sceglie la seconda casa? E questa era proprio la clip che segnalava appunto la seconda casa. Chi sceglie la seconda casa? Esatto, trasmissione la seconda casa che non si scorda mai, mi sembra, o chi sceglie la seconda questa casa? Tutte e due. Tutte e due. Puoi scegliere. Che è una trasmissione condotta proprio da Giulia, esatto. Giulia Garbi, che questa mattina è qui con noi. Volete telefonarci, volete parlare direttamente con Giulia Garbi, potete farlo. L'800240024 vi è stato già ricordato da Deborah. Se invece sms, whatsapp, segnale di fumo, vabbè, per adesso solo sms e whatsapp. Piccione viaggiatore. 349. Il messaggio in bottiglia. 238. Oggi me ne sono inventato un'altra. 6666. Benissimo. Il numero è sempre quello. E poi naturalmente l'email due di denari scritto a lettera @radio24.it. Oh, allora, precisiamo, perché l'abbiamo dovuto fare anche nell'altra circostanza in cui abbiamo invitato Giulia al nostro programma. Giulia Garbi non è una conduttrice televisiva, esattamente come Mauro Meazza, per molti è un grande musicista, in realtà fa il giornalista e il suo grande tema problema è il fisco, no, dobbiamo devo precisarlo, metterlo. So che non tu posso lo negarlo. Fai a malincuore, ma questo va fatto, va precisato. Giulia Garbi invece è un'agente appunto immobiliare e quindi è un'esperta di questo settore, non perché lo fa per la televisione, ma perché lo fa di mestiere nell'intermediazione appunto immobiliare, lavora da un bel po' di tempo, Giulia. Per ormai cui... faccio 10 anni. Benissimo. E mi sento molto amica di casa. Vero? Da voi in generale, ecco. Posso... è un argomento che maneggio bene. Oggi parliamo della seconda, a giugno avevamo affrontato il tema marinaro, oggi affrontiamo invece la montagna, perché la seconda casa intanto fa famiglia, ma oggi questa seconda casa fa tanto altro. Giulia si inventa anche tanti slogan per raccontare bene questo mercato. Mi guardi con curiosità? No, ti guardo con curiosità perché effettivamente, vabbè, ho capito che vuoi che io ti regali una seconda casa, però adesso su questo possiamo discutere. Trattiamo poi fuori dopo. Onda. Invece sono curioso di capire come va ad esempio il mercato della montagna, perché hanno già cominciato a scriverci i nostri ascoltatori, qualcuno dice apertamente ma è un ottimo investimento la casa in montagna, e allora io subito interpello Giulia e chiedo è così? Cioè possiamo magari comprarci una seconda casa in montagna perché sembra promettente come investimento? Sì, questo è un comportamento che nell'ultimo anno è stato molto chiaro. Fatto 100 i compratori di seconde case in montagna, ben 19 sono investitori, lo fanno per investimento. I numeri in generale del mercato sono stati molto interessanti perché di fronte a un andamento ancora in calo dei prezzi, sono ormai 10 anni che i prezzi calano e complessivamente abbiamo totalizzato prezzi da un meno 30 a un meno 40%, e ancora l'andamento del 2016 è stato in calo dal 2 al 3%. A fronte di quindi prezzi molto più interessanti, vediamo un incremento del numero delle compravendite altrettanto importante, perché la seconda casa in montagna nell'ultimo anno ha superato tutte le altre, quindi nel totale delle seconde case il 15% sono state seconde case al lago, il 19% case al mare e ben il 23,5% case in montagna. E questa è una percentuale che va veramente spiegata con grande precisione, perché dicevamo prima, ma insomma non si è neanche sciato tanto negli ultimi anni. Per quale motivo allora c'è stata questa caccia alla casa in montagna? Perché è proprio cambiato lo spirito e l'approccio all'investimento verso quest'ambito? Sì, il primo motivo è sempre il prezzo, quindi quando i prezzi calano e diventano uguali a quello che è il valore percepito per chi vuol comprare, scattano i compratori, quindi la decisione d'acquisto diventa diffusa. Il secondo motivo invece è un cambiamento del modo turistico, quindi abbiamo proprio una vera e propria new age del XXI secolo. La monocultura dello sci è ormai evidentemente al tramonto, purtroppo grazie o per colpa di questi pochi centimetri di neve che cadono, fra l'altro in periodi sfasati. Abbiamo fatto gli ultimi 3 inverni con le margherite sui prati, sì. Praticamente abbiamo cominciato a vedere la neve a gennaio, poi con neve tardiva e poi magari con problemi di poca durata delle e piste. Anche di apertura degli impianti, quindi questi sono problemi di organizzazione ben evidenti. E quindi come è questo nuovo turista? Oggi ha un'esigenza molto più slow and sweet, quindi la montagna, la casa in montagna corrisponde bene a questo nuovo desiderio turistico, perché è una casa lenta, forse è la casa più intima e più sentimentale, no? Tra quelle di mare e quelle di lago. E questo nuovo desiderio di benessere del turista del XXI secolo è un benessere individuale e anche essenziale, e la casa in montagna corrisponde perfettamente. C'è anche un altro ragionamento interessante: se si scia, la casa in montagna è costosa. Negli ultimi anni, non sciando, la come dire, manutenzione, la tenuta della casa in montagna è stata anche un po' più vantaggiosa dal punto di vista economico. Sì. Infatti abbiamo visto che appunto gli sciatori oggi sono solo il 57% dei turisti in montagna, e si affacciano invece questi nuovi turisti che praticano ciaspole, trekking, sci di fondo in misura, in percentuale alta. Lo sci di fondo è praticato dall'8% dei turisti in montagna, ma fanno anche rafting, fanno pesca, fanno arrampicata, e un nuovo sport che si è affacciato è la bicicletta, per esempio, quindi la mountain bike. Quindi sono turisti che godono della casa in montagna 4 stagioni l'anno, anzi spesso molto più nel periodo estivo che non nel periodo invernale, che possono tranquillamente prescindere dalla dotazione di impianti del luogo, anzi meglio, quasi meglio. E in più c'è da dire quindi che questo ha aumentato anche i numeri di turisti in montagna, perché gli sciatori sono sempre meno. Vorrei chiedere anche un'altra cosa, mi pare, ma è la mia proprio un'impressione da turista per caso e non particolarmente di montagna, che molti centri di montagna però abbiano diversificato l'offerta anche con questi percorsi benessere, per cui uno può anche stare in montagna ma sfruttando tutt'altro che non la montagna, cioè delle attrezzature interne, penso alle spa che sono oramai molto diffuse, località che magari hanno la fortuna di avere dei centri termali e quindi offrono anche questo tipo di passatempo, di diversivo ai turisti. Ci chiedono degli ascoltatori, vabbè, ma la montagna ce n'è tante in Italia, quali sono le zone più interessanti in questo momento per investire? Allora, diciamo che i numeri dicono che la preferenza va sempre sulle località più famose, quindi Madonna di Campiglio, Cortina, la Val Badia, però c'è un nuovo trend che sono le località che potremmo chiamare secondarie, quindi quelle meno famose. Perché? Perché chi ha acquistato, quindi questo 23,5%, è andato un po' a caccia dell'affare, ed essendo un turista nuovo, di quelli che magari non scia o scia non così ossessivamente, è interessato anche a luoghi più autentici, quindi di montagna vera, dove può praticare tutte le altre attività. E questi luoghi sono tanti, anche molto vicini spesso alle località più famose. Io ho fatto un esercizio, siccome nonostante il mio lavoro mi spavento anch'io di vedere i prezzi medi e massimi in montagna, perché una Madonna di Campiglio fa un massimo di 12.500 e un prezzo medio di superiore a 10.000 euro al metro quadrato, quindi sono cifre veramente importanti. Diciamo che non sono cifre alla portata di tutte le tasche. Cortina, nonostante il calo dei prezzi, l'anno scorso ha registrato un prezzo massimo di 19.250 euro al metro quadrato. E che cos'era questa casa? Cortina sa esprimersi al meglio da questo punto di vista. Sicuramente bellissima, però domotica come se non ci fosse un domani, chissà che cosa. Secondo me le case veramente di lusso in montagna sono altre, sono le case che hanno intanto un'architettura autentica di montagna. Nel desiderio del turista montano c'è la vera baita, e a Cortina ce ne sono di bellissime, anche molto centrali, eccetera. Poi il panorama, la cosa più desiderata della casa in montagna è poter godere da ogni finestra di un panorama incantevole, e Cortina a 360 gradi, devo dire, emoziona. Quindi Vabbè, rendiamo questo investimento più abbordabile, appunto, per i nostri ascoltatori. Ho fatto questo esercizio. Quindi, avendo questi 19.000 euro al metro quadro per comprare un metro quadro, una mattonella. A Corvara ho fatto questo esercizio. Con 19.000 euro si può comprare una multiproprietà per una settimana. Quindi, insomma, non ce la possiamo fare. Però, tra un estremo ad un altro, vediamo tutto l'intermedio. Intanto vorrei confortarvi che il prezzo medio della casa in montagna quest'anno era di 2.230 euro al metro quadrato. In calo, perché l'anno scorso, 2016, era 2.285. Ma tra i minimi e i massimi le vie di mezzo sono infinite. E quindi possiamo valutare che ogni località tra le più famose, quindi Madonna di Campiglio, Cortina, Corvara, hanno delle località a soli 10 km in cui i prezzi sono al 50%. Quindi lì si apre tutto un altro mondo, perché i 10 km in montagna non mi cambiano la vita. Posso tranquillamente continuare ad andare a sciare quotidianamente e però permettermi una casa più comoda e che mi permette anche di viverci meglio durante tutte le stagioni. Perché l'altra cosa che è emersa dai dati, dall'analisi degli acquisti dell'ultimo anno, è che il 57% acquista una casa piccola, un bilocale e un trilocale. Quindi i maggiori acquisti si concentrano sulla tipologia del bilocale. Però questi sono chiaramente gli sciatori, perché lo sciatore è ancora un turista fast, un po' vintage, potremmo dire. Che caratteristiche ha? Perché è un turista veloce, un turista che va in montagna quasi il tempo necessario per la discesa e poi già vestito, praticamente si veste in auto. Sì, si mettono gli scarponi al parcheggio dell'auto. Sì. Lui vorrebbe, secondo me, io scherzo spesso perché ne ho tre in famiglia, quindi sono molto esperta. Loro vorrebbero quasi salire in cima alla pista con la macchina, già prendere l'impianto. Se inventassero probabilmente uno ski lift che trascina sopra anche la macchina, l'automobile. Sono un po' così. Lo userebbero. Quindi sono frettolosi, sono interessati. Mordi e fuggi. Sì, sono un po' mordi e fuggi. Quindi, tornando alle località interessanti, ce ne sono molte, soprattutto quelle nuove, diciamo così, meno conosciute. Aspetta lì Giulia, allora sentiamo Andrea da Macerata, sì, quale località è interessato, perché lui ci chiama dal centro Italia, Andrea, e quindi magari vuole mantenersi in quell'area oppure vuole fare qualche chilometro. Andrea, benvenuto. Sì, buongiorno. Sì. Buongiorno. Io chiamo perché sono un seguace dei programmi televisivi della Giulia. Lo so, non è l'unico. L'ho inseguita montagne per mesi, Andrea. Esatto. Grazie, Andrea. E avevo una domanda. Allora, riguardo un ipotetico investimento nelle zone montane, dolomitiche soprattutto, e parlando anche dei nuovi hobby che comunque stanno arrivando in montagna, anche in estate, nelle quattro stagioni comunque, vorrei chiedere a Giulia se potrebbe consigliarmi quale vallata, ancor meglio quale paese, al di là dei più blasonati, già che tutti conosciamo, esatto, potrebbe consigliarmi, ecco. Grazie Andrea. Allora, Andrea, dipende sempre dal budget, perché purtroppo non si prescinde da quello, perché le Dolomiti sono veramente desiderate da tutti e hanno una scarsa offerta di case, perché la normativa non permette di vendere con destinazione seconda casa. Quindi per esempio in Val Badia l'anno questo scorso non sapevo esiste anche la possibilità di disciplinare in questo modo. Sì, loro disciplinano, sono regione autonoma, e quindi per esempio l'anno scorso in Val di Fassa, che è l'unica località montana che ha registrato un più, è Corvara, che peraltro è in Val Badia, ma perché c'è una tale scarsità di offerta sul mercato che chiaramente se vuoi comprare una casa compri quella che c'è al prezzo che vuole il venditore. Quindi è un discorso a cui è difficile dare un'unica risposta. Quello che ti direi è magari concentrarti sulle località più trentine, perché intanto per motivi logistici sono più comode. Tu vivi nelle Marche e il viaggio per la montagna è di molte ore, quindi io sono sempre una che nella scelta della casa non considera il viaggio. Non mi vuole stare nei Sibillini, Andrea, mannaggia. Eh sì, perché infatti mi aspettavo che tu mi chiedessi l'Abruzzo, perché ho scoperto analizzando i dati che gli abruzzesi sono i più montanari di tutti. Vero. Quindi loro hanno il Gran Sasso con località davvero molto belle. Non mi stupirebbe se la questione terremoti in qualche maniera condiziona in questo momento la scelta, perché tutti i romani che appunto si fanno la stagione invernale in quelle aree stanno riducendo notevolmente presenza, adesso queste certo. Loro. Quindi, sì. Allora, quindi ritornando ai Dolomiti, partenza chiaramente budget disponibile. Attenzione alle zone che il mercato in questo momento limita, di cui limita la potenzialità per le ragioni che spiegavi, c'è talmente tanta richiesta che appunto un'idea la voglio dare ad Andrea, però, che è la località di Pinzolo, perché i prezzi medi sono di 4.000 euro al metro quadrato e se trovi un usato un po' usabile comunque puoi stare anche sotto, e soprattutto c'è in programma questo collegamento di impianti che potrebbe essere molto interessante, potrebbe dare delle rivalutazioni nei prossimi anni, quindi dai un'occhiata lì. Allora 800, guarda, stanno arrivando un sacco di telefonate stamattina, 800 24 00 24, continuate appunto a chiederci se volete la vostra indicazione, un consiglio, consulenza, una esatto, consulenza. Una consulenza immobiliare questa mattina ve la facciamo così smart con la nostra Giulia Garbi, che peraltro abbiamo scoperto insomma essere molto appassionata di montagna, sì, anche per tutta una serie di ragioni, come dire, filosofiche, sì, che in qualche maniera possono essere suggerite ai nostri ascoltatori quando guardano a questo tipo di investimento. La seconda casa, dice lei, è proprio sentimentale, sì, in montagna. No, in generale lo è. Sì. La seconda casa è la casa del cuore, no? L'abbiamo detto anche quest'estate. È la casa proprio che scegliamo secondo la nostra naturale inclinazione. Ognuno ha la sua. La casa di montagna, tra le seconde case, secondo me è la casa più intima, è quella più romantica. Vorrei usare le parole di Messner, che diceva che le montagne sono per me un sentimento, e così è la casa in montagna. Quindi insomma è la casa dei sentimenti. Ho capito che, cara Debora, stai cercando in tutti i modi allora di, rinunciando agli yacht e ai diamanti, su cui pure avevi puntato in altre occasioni, adesso vedi vuoi un po' te, hai vedi. Scelto la casa in montagna. Vorrei darti uno spunto, Mauro. Prima hai fatto l'accenno delle terme. Sì. E una delle località che mi ha meravigliato di più nella crescita dell'anno scorso è stata Lurisia, in provincia di Cuneo, che è una località termale e che ha strappato quasi un più 1,2% ai prezzi. Potresti regalarle una casa a Lurisia. Mamma, qual era il valore di partenza? Un più 1%, un più 1,2%? Su 19.500 euro a metro quadro? No, è molto meno, esatto, naturalmente. Adesso devo andare a raccontare la borsa tra poco, però Giulia, magari cominciamo già ad introdurre anche il tema dell'acquisto della casa in montagna come investimento. C'è chi lo fa, questo investimento, solo appunto ad uso esclusivo di rimettere in affitto come... Sì, perché la casa in montagna è la casa in affitto a brevi periodi per eccellenza, perché il tempo massimo, una settimana bianca, a volte anche solo un lungo weekend. Quindi, e questa è un'abitudine da sempre, mentre al mare, al lago è un po' una novità degli ultimi 10 anni, quella di offrire questo tipo di affitti brevi, in montagna è da sempre. E quindi su questa casa ci si paga l'IMU, caro Mauro, io lì volevo arrivare. Guarda che poi ci sono diversi ascoltatori che ci segnalano, attenzione perché sono aumentati gli oneri di sistema, qualcuno genericamente dice le tasse, sono gli oneri di sistema sulle bollette della seconda casa. Che già ne pesano parleremo per l'80% probabilmente sulla bolletta, quindi qualche, ci mancava pure sì, un aumento qualche ulteriore. Prossima puntata di Due di Denari affronteremo questo tema del rincaro degli oneri di sistema. Sì, ti vedo che guardi con preoccupazione l'orologio. No, perché in realtà c'era questa località di Ceresole Reale che io non conosco assolutamente. Ah no? E sentivo che ne parlavate prima, ma che, dov'è questo posto? Perché è famoso? No, aspetta, ma lo vuoi dire adesso subito? No, volevo capire, volevo capire perché era uno dei posti un così interessanti. Io posso svelarvi molte cose su Ceresole, ma voglio avere l'autorizzazione. Ah, vai, raccontaci qualcosa prima dei mercati. Allora, a proposito di località amene e diciamo fuori luogo rispetto alle grandi località di montagna, quelle più famose, Ceresole è un esempio di posto molto autentico. Si trova in Piemonte, in provincia di Torino, nella parte del Parco del Gran Paradiso piemontese, quindi è un luogo di natura spettacolare. In particolare c'è una strada molto amena e famosa che è la strada provinciale 50 che conduce al Colle del Nivolé, dove c'è un lago, e questo posto era storicamente molto famoso, si chiama Reale perché veniva frequentato dai Savoia dalla metà del 1800, perché era la stazione di posta per la caccia allo stambecco. Oh, finalmente mi avete svelato, perché adesso, guarda, posso ascoltare i mercati con tranquillità. E a questo allora, punto... io te li racconto. Deborah le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... di denari. Loretta Lim. No, ma soprattutto tua zia. Avendo Peter Bescapè questa mattina in regia, ci aspettavamo una colonna sonora. Ci aspettavamo il coro degli alpini almeno. Insomma, qui devo dare una tirata d'orecchi a Giulia Lauricella e Marco Lombardo. Siete ancora in tempo a farcelo ascoltare. Rimediate con un coro alpino che insomma ha una tradizione, per carità, con tutto il rispetto per il country, ma. Vabbè. Dai, su. Allora, ribadiamo, stiamo parlando della seconda casa in montagna. È probabilmente il momento giusto per fare un piccolo pensiero a proposito di questo possibile investimento, visto che quest'anno a quanto pare la neve tornerà, quindi molti vi godrete, almeno gli appassionati, la settimana bianca o diversi weekend in montagna per praticare il vostro sport preferito, e magari, dato anche l'andamento piuttosto favorevole in certe località dei prezzi, chissà che se non si faccia anche un altro pensiero, quello di investire appunto nel mattone montano. Ci sta aiutando a capirne qualcosa di più su questo mercato, su come si fa la scelta, quali sono le località più interessanti dal punto di vista dei prezzi. Giulia Garbi, agente immobiliare, oltre che conduttrice delle trasmissioni La Seconda Casa Non Si Scorda Mai e Chi Sceglie La Seconda Casa, e tanti progetti anche in quella testolina che veramente è un cantiere sempre aperto, direi, proprio mi pare la modalità giusta per poterla descrivere. Allora, tanti messaggi anche da parte degli ascoltatori. Volevo rassicurare l'amico che ci scrive: non avete mai fatto una puntata sulla rottamazione delle cartelle? No, che probabilmente ha perso qualche puntata, perché... Sì, perché devo dire che io ammetto di avere abbastanza sfinito Deborah con la rottamazione delle cartelle. Però guardate che faccia. Guardate, che posso dire a tutti, il decreto legge 148 ha ottenuto il voto finale del governo, scusate, del Parlamento ieri. Quindi Stiamo aspettando la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, faremo grandi feste quando questa avverrà, che avverrà nei prossimi giorni. Perché il provvedimento doveva consentire di procrastinare la rata in scadenza ieri al 7 dicembre, ma giusto? Sei preparatissima. Eccolo. Il minestrone di ieri. Oh, resta quindi. Avevamo due pentole sul fornello, il decreto legge 148 è pronto, è cotto, adesso appena lo mettono in Gazzetta Ufficiale possiamo consumarlo e mangiarlo. Nella versione modificata dalla conversione in legge. C'è l'altro minestrone, l'altro pentolone, che è il disegno di legge di bilancio, ci sono tante altre belle cose lì dentro, per la rottamazione delle cartelle dovrebbe arrivare il tutto entro la pubblicazione, entro il 7 dicembre, quindi siete in tempo con la terza rata. Benissimo, andiamo adesso alla nostra seconda casa in montagna. Allora, abbiamo così scandagliato, anche se naturalmente sono così tante che il ragionamento che abbiamo fatto è stato breve fino a questo momento, ma parleremo anche di altre località. Detto questo, Giulia, il profilo dell'acquirente della seconda casa in montagna. Abbiamo parlato prima dell'appassionato di sport, di sci, ma anche di altre discipline sportive che in questo momento stanno veramente registrando sempre più consenso, però si può comprare casa anche guardando ad un obiettivo di più lungo termine, dal punto di vista anagrafico, diciamo, no? Allora, intanto il 74% dei compratori sono famiglie. Tu sai che io dico la seconda casa fa famiglia ed è una conferma. Anche se i trend dell'ultimissimo periodo dicono che sempre meno famiglie sono interessate, perché la famiglia oggi è un po' scomposta e quindi la casa potrebbe essere un po' scomoda da gestire. Però in termini di futuro, la montagna è da 0 a 100 anni, perché non è necessario scendere per le piste nere o arrampicarsi con arrampicata libera, ma si possono fare tantissime altre cose. Quindi, a mio avviso, molte località, soprattutto quelle sempre meno famose, insisto su questa cosa perché queste sono le vere opportunità e potrebbero essere le occasioni del futuro, anche in termini di sorprese nell'investimento, potenzialità dell'incremento dell'investimento, offrono veramente una giornata per tutti. E quindi, a mio avviso, visto che noi pare che vivremo moltissimi anni, la montagna ha un ambiente salubre, perché il clima è una delle cose che è preferito nella scelta della località. Perché ecco. Abbiamo Rossella da Roma, che vorrei chiamare in causa perché segnala una località, un'area italiana che ci è cara. Rossella, buongiorno. Buongiorno a voi. Qual è la sua esperienza? Lei ha acquistato dove? Allora, io ho acquistato in un piccolo centro abruzzese da Favola, Pesco Costanzo si chiama, che è un paese perfettamente conservato dalle guerre, tant'è che ricevette anche i sussidi della Comunità Europea, per cui è stato tutto ripavimentato, ci sono questi palazzi storici, c'è anche molto artigianato, ma soprattutto si è valorizzato da quando il comprensorio sciistico della zona è diventato veramente efficiente e rimodernato negli ultimissimi anni. Per cui come sciatrice io sono molto contenta, perché ho acquistato la mia casa appunto come casa familiare da vivere. Quanti anni fa, Rossella? Nel 1982. Ah, vabbè, dammi un po' che ce l'ha, certo. Pensavo che l'avesse fatto in tempi più recenti, dato l'entusiasmo con cui ce lo racconta. Grazie Rossella, grazie molte. Quindi siamo ritornati in Abruzzo, che abbiamo citato prima. La casa invece, Giulia, che caratteristiche deve avere? Dacci magari due dritte. È chiaro che poi il gusto personale ha la domina, ovviamente, certo, la prevalenza. Però insomma, magari la moglie di solito ha la prevalenza, mi viene da dire, ma scusate, case, una battuta sessista. Le case sono delle donne, caro Mauro. Va bene, mi arrendo allora. Intanto questa signora ha detto tre cose molto interessanti. È quasi una turista modello, perché ha parlato del luogo, e nessuno compra una casa senza prima scegliere il luogo. I luoghi preferiti sono quelli che ha descritto lei. Pesco Costanzo, fra l'altro, mi sembra sia uno dei borghi arancioni del Touring, è sulla linea cosiddetta trans-siberiana d'Italia, quindi è addirittura un posto che si può raggiungere col treno, che è una delle cose su cui io dico state attenti, perché questa potrebbe essere una grande risorsa per il futuro, la raggiungibilità con i mezzi pubblici. Poi lei ha parlato di un paese molto conservato, con una storia specifica, con delle belle case, dei bei palazzi, e anche che ci sono impianti adeguati. Quindi oggi il luogo che si sceglie è un luogo che riesce a coniugare una capacità di innovazione in termini di offerta, per esempio in primis gli impianti, insieme a una grande capacità di conservazione e valorizzazione delle tipicità locali. L'Abruzzo in questo forse anni di isolamento l'hanno meravigliosamente preservato, per cui è un bellissimo luogo. Un po' lontano, diciamo, si risvolge a una clientela principalmente del centro Italia o del sud, ma è ben rappresentativo. Per quanto riguarda la casa, altrettanto, l'ho accennato prima, la casa preferita è la Baita, praticamente. Quindi a forma di casa di montagna. Una grande attenzione che però è emerso dall'analisi di mercato nella scelta dell'acquisto è il risparmio energetico. E la Baita, devo dire, è una casa in bioarchitettura da sempre, perché una volta non c'erano gli impianti di riscaldamento così comodi e quindi venivano costruite con il criterio del risparmio energetico per forza, perché sennò si sarebbe morti di freddo d'inverno e quindi sono case da questo punto di vista molto intelligenti. Meno preferiti sono gli appartamenti in condominio. Abbiamo riempito le nostre montagne di questi condomini molto urbani, purtroppo, però oggi hanno dei costi condominiali molto alti, cioè è un attimo pagare 4-5 mila euro di spese condominiali per 80-90 metri quadrati, perché la voce del riscaldamento è particolarmente inefficiente da questo punto di vista. Quindi l'attenzione al risparmio energetico nella scelta della casa è molto importante. Va bene, siamo al momento del domandone. Ma mi pare di ricordare. Sì, trasformati come al tuo solito, allora il domandone. Si è trasfigurato in Mike Buongiorno, ha questo suo momento di gloria che io devo star zitta e farglielo vivere. Cosa devo fare? Allora vogliamo sapere, rispondete all'800240024, per cosa è famosa la località di Ceresole Reale. Se siete stati attenti è facile. Adesso traffico. Di denari. Cappello sul cappello che noi portiamo. Se lo avessimo avvisato arrivava anche con il copricapo Peter Bescapè, detto l'alpino, esatto. Ma non per caso, perché e si sarebbe è abbinato benissimo anche a Giulia con l'abbigliamento che ha portato appositamente per noi, no? Io le avevo le piume pronte nell'armadio, ma stamattina ho capito che non volevi delle cose allora, esagerate. Allora intanto avete sentito che mi ha anche gridato, ma pure con un piglio, non sono piume, sono penne. Tutto anche indispettito dall'altra parte. Adesso mi spegni il microfono, me lo chiude. Ma io anche le penne, guarda, facciamo così, lasciamolo riposare. È venerdì, diamo una pausa anche a Peter e facciamo la nostra C'è imposta per te. Prego, del venerdì. Vai. C'è imposta per te. Ma non eravamo in montagna? Non mi confondere le idee. Lo so, Deborah, però facciamo un giretto al mare, perché abbiamo in collegamento il signor Alfio Tonani, che è appunto vuol capire se c'è un'imposta anche per lui. Buongiorno signor. Buongiorno Alfio. Buongiorno. Allora, ci racconti rapidamente un po' com'è la sua situazione di E perché ha chiesto futura. Il nostro aiuto, esatto. Riassumendo rapidamente, sono un neopensionato, ho venduto tutti gli immobili in Italia, non ho legami effettivi in Italia, la moglie è separata. Quindi una ex moglie ma già separata, sì. Un figlio ho iscritto all'AIRE in Australia, ho deciso di armare una barca a vela e girovagare un po' per il mezzo mondo, perché non ho nessuna intenzione di tornare. Ah, ecco, quindi lei ci ha scritto perché ha detto: scusate, ma io che girerò sui mari di tutto il mondo con una barca che ci ha scritto anche viene armata non in Italia ma in Slovenia, giusto? Certo. Ecco, dovrò pagare comunque, posso pagare le tasse, devo pagare le tasse, ma su che devo pagarle le tasse? Mi sembrava di aver capito che c'era una detrazione per chi stava fuori dall'Italia almeno 186 giorni. Allora, noi ci siamo rivolti, guardi, signor Tonani, io non so come dirglielo, glielo dico pacatamente, purtroppo l'imposta la segue, lei ha ragione, esiste il fatto che se uno non risiede in uno stato per 6 mesi e qualche giorno, non può essere considerato residente fiscale in quello stato. E lei solo che è in una situazione particolare perché non è residente fiscale più da nessuna parte a questo punto. Noi abbiamo scomodato il nostro esperto Paolo Lucarini, che è stato qua anche in trasmissione con noi, che ci ha detto: ma in realtà qui è difficile che lei possa iscriversi all'AIRE, cioè al registro italiano, all'anagrafe italiana dei residenti all'estero, e poi comunque avrà questa pensione su cui immagino dovrà comunque fare conto. E allora, come dire, l'imposta la seguirà comunque. Certo, non avrà più da pagare nulla in Italia, non avendo più immobili. Si immagina il nostro esperto che, se esiste un atto già giudiziale di divorzio, allora tutti i legami sono soppressi da questo punto di vista. Bisogna vedere se ci sono gli assegni da parte sua che devono essere versati, ma ohimè, oltre all'Italia non ha un altro stato di residenza, non può eleggere un altro stato di residenza a meno che ci si fermi per più di 6 mesi. E quindi cosa possiamo dire? L'imposta, cara Deborah, ti segue anche in mezzo al mare. Oltre all'IVA che ti guarda, c'è anche l'imposta che ti segue al mare. L'IVA ti guarda, ma l'IRPEF non ti molla. Esatto, chissà cosa non succede in montagna, sarà la stessa storia, immagino. Quindi se lui dovesse cambiare, che ne so, gusti di viaggio, se invece del mare dovesse andare in montagna, la situazione per lui dal punto di vista fiscale non cambierebbe un bel niente. Ah, scusa, ricordo al signor Tonani che comunque dovrà sempre ricordarsi che va compilato il quadro RW per la dichiarazione dei redditi, per eventuali redditi prodotti all'estero, esatto, depositi all'estero. Perché quindi non sappiamo se negli anni prossimi arriveranno altri volontari disclosure. No, non so neanche se si può sbarcare a Shanghai, ma insomma ho detto una stupidaggine geografica. Se sbarcando in qualche porto esotico aprisse un conto lì con degli investimenti, ebbene attenzione che c'è RW. Esatto, la dichiarazione dei redditi in Italia, quindi il quadro corretto da compilare. Mamma mia che sudata che mi hai fatto fare con questo poveretto, gli abbiamo mandato. Prendi un po' d'aria fresca in montagna. Gli abbiamo mandato di traverso il suo giro nel mondo. Allora adesso il tema è capire se sentiamo qualche altro ascoltatore. Direi di sì, Franco da Modena, però tenete a mente anche il domandone che vi abbiamo fatto, perché in regalo c'è una succulenta guida IMU e TASI del Sole 24 Ore, di cui siamo esatto. Comprare casa a Ceresole. Esatto, infatti, ma guarda che sanno, gli ascoltatori stanno già rispondendo, sono stati molto attenti, ma io lo so alla tua spiegazione. Sanno. Io lo so perché. Franco da Modena, benvenuto rapidissimo, grazie. Sì, buongiorno. Niente, io ho un appartamentino sull'Appennino modenese in un residence. Volevo chiedere lì al vostro esperto che quotazioni ci sono lì. Ah, intanto lei da quanto ce l'ha, Franco? Intenzionato a vendere? La sua domanda è interessata o disinteressata? No, è interessato, se è interessato a vendere. Io ce l'ho da 20 anni. In che località precisa? Perché magari da Mocogno. Allora, Giulia dice sì, io non lo conoscevo. Io lo conosco perché io ho avuto dei trascorsi finanziari a Modena, quindi conosco anche le montagne modenesi. Dunque, intanto non si può parlare di prezzo al metro quadrato quando mi chiedete la valutazione di un singolo appartamento. Se perché, non l'hai visto, Sì, esatto. Perché può essere da rudere ad una casa degli anni 70, quella degli anni del secolo scorso. Lo stato di manutenzione, l'esposizione, il piano, tante cose. La Mamocogno, io credo che vada occhio perché le ho studiato per quasi tutte le località, ma comunque dovremmo essere circa dai 1000 ai 1500 euro al metro quadrato, perché più o meno l'Appennino anche nei punti massimi non raggiunge i 2000 euro al metro quadrato, quindi prendiamola con beneficio d'inventario, però ma l'ordine di grandezza dovrebbe essere questa. Un'indicazione assolutamente operativa. Allora, ho letto, Giulia, che c'è da qualche parte d'Italia, in Val d'Aosta, la prima casa totalmente passiva. Sì. È come l'ETF, Mauro. Sì, sì. È il fondo di investimento che non ha il gestore, che reagisce, che lo manovra, solo esatto, a stimoli esterni, del mercato, insomma. Ma non credo che questa casa abbia queste caratteristiche. È stata costruita da questo studio Monterisi, è una vera baita, a forma di baita, quindi. Si chiama casa UD. E ha usato dei materiali che hanno appunto permesso la totale passività, quindi non consuma nulla, grazie all'uso della paglia di riso e della terra cruda come intonaco. La paglia di riso? La paglia di riso, perché pare che abbia particolari proprietà isolanti. Hai capito? Sì, chiaramente poi pietra dentro, e legno. No, ci assicuri, no, però che ci si sta bene. Ci si sta. Io non ci sono stata, ma sì, se è passiva, sì, funziona come ha una prestazione energetica come una casa riscaldata con riscaldamento a gas metano. Abbiamo parlato di gente che vuole acquistare, ma invece per vendere, qual è il non so, il tempo ideale che uno potrebbe darsi, 5 anni, 10 anni? Allora, anche ovviamente lì... il mercato sale e scende come tutti i mercati, però la marea sarà mi un... sembra la canzone di Sandokan. Allora, intanto, quando una... dipende dalla casa, dipende dalla località e dipende dal prezzo. Io dico che quando una casa sta in vendita più di 6 mesi c'è qualcosa che non va, e il qualcosa che non va è sempre il prezzo. Mm-hmm. Però ci sono località più lente, perché in montagna capita anche nelle località sempre quelle più richieste di vendere una casa alla prima vista. A me è capitato, anzi quasi sempre è capitato, quindi mentre ci sono località più lente perché hanno flussi turistici meno importanti numericamente, quindi bisogna aspettare il cliente giusto per quella casa. Però ricordatevi che il prezzo è la prima variabile che determina il tempo medio. L'altra novità di quest'anno, essendo aumentato il numero di compravendite, è diminuito anche il tempo medio di vendita. È diminuito di circa 5 mesi, quindi diciamo che... insomma, non male. No, infatti, eravamo a volte anche sopra l'anno e mezzo, adesso invece siamo nettamente sotto. Gianni da Milano, allora, ci dica un po', lei è andato a Ceresole? No, non sono andato a Ceresole. Reale, col Reale. Ma perché era famosa? Era famosa per l'area di caccia allo Stambecco della famiglia Savoia. Bravo Gianni. Bene, guida guadagnata. Esatto, che cosa, gli mandiamo la canzone degli Alpini oppure l'applauso? Niente, risposta Peter. Esatta, caro Gianni. Noi abbiamo 10 secondi per salutare naturalmente Giulia Gabbi, grazie di essere stata con Quale noi. Quale località di montagna passerai i tuoi lunghi weekend o la settimana bianca, se la farai, visto che a casa tua sciano tutti? Io, a proposito di Piemonte, di robe reali, io vado a Bardonecchia. Io e te invece siamo sempre qua, lo sai? No, sì, siamo sempre sei qua. Sei consapevole che te scieremo, non lo so, ma qua via Monterosa. Adesso guarda, è noi uscito il sole Monterosa, in via Monterosa. Però, meglio di noi. Siamo un po' in montagna. Buona domenica. Buona domenica a tutti, buon weekend. Grazie Giulia, a presto. E buona casa in montagna.